attacchi, si è attaccato, registra. Questa è la seconda parte. Vabbè, allora non sapete, vedete dopo, vi ho messo un paio di librettini per... questa è l'edizione autonoma del libro, insomma, un qualche anno più tardi, evidentemente. Saggio sul dono. Allora, questa purtroppo è uscita così perché fa schifo, comunque questa è la prima edizione italiana, questa roba dal vivo, ve la faccio vedere dal vivo, perché ecco la roba lì, fermiamo un attimo, questa è l'edizione inglese, fermiamoci sull'edizione inglese. Allora, questa è l'edizione italiana, la prima volta che è uscita si chiama La teoria generale della magia e altri saggi, dentro ci sono tutti gli scritti che vi ho detto io, più credo qualche altra cosa, dice il saggio di una serie generale della magia che non vi ho detto, poi c'è il saggio sul dono che è quello più lungo, poi ci sono rapporti reali tra scienza e la psicologia, effetto fisico, no, in realtà non c'è nessun altro, la carne è la tecnica del corpo, effetto fisico dell'individuo sull'individuo dell'idea di morte suggerita dalla collettività, una categoria dello spirito umano, la nozione di persona è quella di Dio, e poi le tecniche del corpo, che è l'ultima opera grossa. E, importantissima, l'introduzione di Levi-Strauss, che è lunga, bella grossa, più di 50, sono... quante pagine sono? Sono 54 pagine, e di cui vi parlerò quando vi parlo di Levi-Strauss, vi parlerò anche di corpo, perché dentro sono delle cose più magiche, più strane che abbia detto Levi-Strauss, ma per me più interessanti, anche perché io poi l'ho usata fare da quando mi sono imbattuto in questa nozione che si chiama significante fluttuante, quindi in questa introduzione Levi-Strauss si introduce la idea base, ma ne parleremo quando parliamo di Levi-Strauss. Adesso ci sono delle edizioni anche singole del Saggio sul dono, per chi volesse leggere come anche lì, insomma, poi è quello più famoso. Questa è l'edizione inglese, The Gift, The Foreign Reason for Change in a Fact Society. La forma e la ragione dello scambio nelle società arcaiche. Allora, di che cosa si parla in questo libro, in questo Saggio sul dono? Adesso capirete, adesso man mano vado avanti capite perché ho scelto gli argomenti, eccetera. Una parte solo del punto di partenza di Moss, ovviamente, sono gli studi sul Kula di Malinowski. Ma prima ancora sono gli studi, in realtà lui parte non da Malinowski che è venuto dopo, gli studi su una singolare e noi possiamo dire bizzarra, ma quali delle cose che fanno queste società arcaiche, orali, a noi non parlano bizzarre, sono tutte bizzarre con la nostra, come dire, mentalità. Quindi una pratica diffusa in larga parte della diffusa prima della lingua dell'uomo bianco e poi con la lingua dell'uomo bianco sempre meno, insomma, però già se va in tempo a se la vedeva, in tutta la costa nord-occidentale degli Stati Uniti, degli attuali Stati Uniti, dell'Alaska e del Canada, quindi capite in che zona siamo, la Columbia Britannica, e prenderà fino ad alcune società degli eschimesi. Una pratica che dal punto di vista che basandosi su una delle lingue di queste lingue non mi chiedete quale, non me la ricordo, prende il nome e poi il nome è quello che è il nome con cui è risultata poi più conosciuta, il nome è Potlatch. Questa è la prima traslitterazione che è stata usata, in realtà poi per esempio nel saggio, nell'edizione italiana, che non è l'ultima, nel saggio sul dono è scritto semplicemente Potlatch con la C, quando si pronuncia è C, il suono finale, per questo è scritto TCH, perché in alcune lingue TCH è l'unico modo che c'è per... adesso non ho ancora messo, quindi ci ho messo un po' per introdurre il nome, adesso vi racconto cos'è. E vi faccio anche vedere alcune figurine, non è che ci sono anche le figurine, ho preparato tutto quello che ci vuole per fare una lezione moderna e che interessi gli studenti, quindi sono siamo tranquilli. Allora, potlatch. Allora, il potlatch è, adesso dal tempo che ci metto per descriverlo capirete che non è una cosa così semplice come potrebbe sembrare a prima vista, anche se c'è una rapida definizione di potlatch per dirla in breve che cos'è. Allora, per dirla in breve, ma ovviamente semplificando molto, si chiama potlatch ogni scambio generalizzato e concentrato nel tempo di beni materiali fra popolazioni di tribù diverse appartenenti però o ad una stessa etnia o a etnie diciamo vicine. Detto così, diciamo, sembra. In realtà in alcune culture, quindi nelle culture di molte tribù, delle grandi famiglie indiane, degli Algonquin e degli Athabasca, scriviamo in nero, Algonquin Athabasca, in molte culture inuit, cioè eschimesi, in tutta quella zona, insomma, no? Della costa, abbiamo detto la costa nord-occidentale, ma anche verso il centro, insomma, anche ci sono dei potlatch anche nel nord della California, insomma, quindi il potlatch è un importante appuntamento diciamo sociale per culture di questo tipo e adesso da come ve lo racconterò mano a mano capirete differenze ma anche analogie con il kula melanesiano. Quindi allora vedete che siamo in zone abbastanza diciamo distanti, non proprio dall'altra parte del mondo, ma insomma siamo Melanesia e nord-ovest del continente americano, insomma del continente nordamericano. Certamente i più acuti tra voi hanno già fatto 2 più 2, insomma, hanno capito, però insomma è un po' più complessa di così. Preferisco arrivare anche per me perché sennò non la capisco io mi sento sempre di insegnare le cose come le ho capite e come sono arrivate, siccome sono uno lento di comprendonne o è poco acuto eccetera vado piano piano c'è il tempo e semplifico un po' le cose, spero di non semplificare troppo. Allora che cosa accade dentro questo posto? Allora intanto come nel kula, però forse in modo più, allora, spero nel kula, spero di avervi raccontato che c'è un kula tra, allora il kula è molto complesso, no? Quindi sono due diversi, le collane e i bracciali viaggiano uno in un senso, l'altro nell'altro, quando mi hanno regalato una collana devo vendere un bracciale, eccetera, dove non posso fare, e poi c'è un kula dei capi tribù e il capo tribù ha centinaia di affiliati, di corrispondenti in altre culture, quindi fa e riceve centinaia di regali e d'altra parte è più ricco, è più. E poi c'è un kula però anche degli individui, non tutti ma molti individui fanno il kula individuale, cioè hanno 1, 2, 3, 4, 5, 10 amichetti, corrispondenti nelle altre culture e si fanno gli scambi, la conchiglia, il bracciale o la cosa, eccetera. Quindi cioè, il potlatch invece è prevalentemente, allora voi qua Algonquin non leggete, l'ho letto io perché sono quando sono seduto me lo blocca il computer. Allora, il potlatch, a differenza del culo invece, è puramente collettivo. Cioè, il potlatch lo fa il capo tribù per la tribù. Cioè, è lui, ovviamente, allora, ovviamente si lavora a volte anche un anno di fila per mettere insieme e raccogliere tutti i beni. Mowari, sì, ok. E l'altro era? Sulavo. Sulavo. Vedete, me li dimentico da una volta all'altra, perché poi non è capo tribù. Quando preparo la lezione arrivo, ma... come stavo dicendo, sì. Allora, sì, primo è collettivo. Secondo, quindi però lo fa il capo tribù a nome di tutta la, diciamo, tribù. E lo scambio, cioè il regalo, seguito dal controdono, cioè seguito dal regalo quasi immediatamente, quindi non c'è quello scarto temporale che c'è nel culo, che a volte può andare anche un anno, due, cioè. Diciamo, lo scambio, diciamo, nell'ambito del potlatch bisogna avere dato e, diciamo, ricevuto. Il potlatch si deve chiudere con una... quindi ci sono delle merci scambiate non ovviamente nel senso economico, insomma, nostro, però in qualche modo adesso vedremo poi cosa dice il Master Mosso su questo. Allora, quindi primo c'è questa cosa. Secondo, il tipo di beni che riguarda il potlatch non è così esclusivo come il cura, cioè non ci sono degli oggetti particolari che sono oggetto del potlatch, ma oggetto del potlatch possono essere, può essere qualunque, da quelli alimentari, quindi da cataste di ignami, noci di cocco, noci di cocco nel nord ce ne poco, ma diciamo pelli di foca, pelli, trichechi, scoiattolini, insomma qualsiasi cosa, quindi cibo, si scambia, si regala del cibo, si regalano dei manufatti, quindi anche lì bracciali, ma anche corazze, anche armi, anche asce, anche cose di questo tipo, tessuti, si regalano tessuti, molti tessuti, ripeto, a volte la tribù lavora per un anno intero e tutti, non solo il capo tribù, tutta la tribù lavora per produrre questo sovrappiù, questo surplus, poi certo durante l'anno mangiano anche, si vestono, ma in più tessono dei tessuti che mettono da parte, costruiscono degli oggetti di bronzo che mettono, o di rame che mettono da parte, il ferro non c'era arrivato ancora molto di loro, il ferro non solo c'è da parte. Siamo ricimentati in quella zona del mondo quando sono arrivati, quindi magari però non lo sapevano lavorare bene. Ecco, allora lì in questo disegnino vedete per terra c'è una parte, vedete, dei panieri pieni di cose, non si vede bene cosa sono, in gran parte sarà cibo, quindi quello lì forse, però ci sono molte altre cose. Intorno a questo gesto di donare all'altra tribù e ricevere in cambio un dono più o meno altrettanto, volete, questo è più simile al culla, se una tribù riceve in regalo 10 ceste di pelli di foca o di tricheco, non può dare in cambio un cesto di cavolfiori, insomma. Adesso no, cavolfiori questo, non certo. Un cesto di qualche cosa, deve dare più o meno qualcosa che sia equivalente, no? Che non sia, e che sia ovviamente tipico, però sono, in genere sono oggetti diversi, perché cibo, le tribù vengono comunque di lontano, viaggiano per terra o per mare, quindi anche questo si svolge all'incirca una volta all'anno. Quindi anche lì c'è una varietà di beni, ma più ampia, perché non è così, diciamo, ritualizzata. E naturalmente ci sono tutta una serie di riti, diciamo, connessi, per esempio delle danze. Allora, poi dopo vi faccio vedere anche un filmatino che è molto tardo, in genere abbiamo quasi solo roba delle danze di rimaste, perché non... allora, certamente voi sapete che sia Kula che Potla ci sono stati proibiti, il Potla a un certo punto è stato, come dire, proibito, perché adesso ci arriviamo perché arriviamo all'ultima caratteristica, la più inquietante del potlatch. Che cosa succede quando qualche tribù non è venuta perché aveva freddore anche, o perché c'erano altre cose da fare, che lo sappiamo, e intanto l'altra tribù che andava ha accumulato un sacco di roba, e tra doni e controdoni c'è qualcosa che vi rimane, voi dite, beh, si porta a casa, no? Non si porta a casa, si distrugge. Tutto ciò che non può essere scambiato direttamente dentro un potlatch deve essere, diciamo, distrutto. Nelle primissime descrizioni che fanno i primi testimoni di questi fenomeni che sono stati osservati dai bianchi, i primi potlatch visti dai bianchi, questa caratteristica appare addirittura preminente. O perché l'osservatore vede solo quella, non si capisce bene insomma, perché vede, però quindi c'è una nozione che ci dovrebbe essere, ci è o ci dovrebbe essere familiare ovviamente per la dalla come economia, è quella di sovrapprodotto. Anche quindi primo tanto pensare, anche società che a noi paiono poco sviluppate, in realtà anche in quelle c'è un sovrapprodotto, esattamente come c'è un sovrapprodotto. Noi in genere siamo abituati a dire che il sovrapprodotto sociale compare soltanto quando c'è l'agricoltura. Per certi versi è vero. C'è il sovrapprodotto, quello che insomma, si mette via, perché l'agricoltura, cioè, nelle società di cacciatori e raccoglitori non c'è un vero e proprio sovrapprodotto, in genere le società di cacciatori e raccoglitori consumano tutto quello che producono, non stanno come dei cretini a cogliere delle bacche che poi dopo non mangiano, colgono bacche perché le mangiano, quando c'è la pancia piena, c'è l'avvocati che gli viene da vomitare e smettono di raccogliere bacche, non è che portano in giro dei panieri con le bacche, anche perché sono nomadi in genere, non è vero. Quando cacciano l'alce, cacciano piccoli mammiferi, si mangiano tutta, non è che lasciano lì adesso questo la mettere in frigo, ma perché non c'hanno frigo. Vabbè, voi dite, stanno nella zona di testi mesi, ma possono fare meno per come dire, motivi climatici, però insomma non è così. Ha un po' più asciutto, un po' più caldo, non è che sia. Quindi non c'è proprio. Il fatto è che non esistono, probabilmente sono mai esistite, società di puro esercizio, certo, sono esistite, ma insomma. Le società in cui il potlatch si è sviluppato sono comunque società che in qualche maniera non sono di pura caccia e di pura raccolta. C'è una specie di agricoltura embrionale, come c'era nella Melanesia. Non possiamo dire che in Melanesia, per il fatto che si raccolgono gli ignami, c'è una vera e propria agricoltura, non è propriamente agricoltura, però in qualche maniera quando si fa il giardinetto l'uomo delle Trobriand diciamo semina vignami, cioè, non è che sia, poi lo lascia l'isola, sì, sovrinacca un po', insomma non è propriamente come seminare il grano, non c'è il maggese, non c'è la rotazione dei campi eccetera, però è una agricoltura e embrionale. Terzo, una serie di attività artigianali che deve essere comunque già sviluppata in quella società. Si deve saper conciare delle pelli, cioè si deve sapere una volta che hai abbattuto l'animale, lo scuoi, gli togli la pelle, della pelle che ne fai. Tanto che ho visto il cellulare di Carolina che stava in posizione precaria, sono delle tasche di pantaloni, li odio, perché hanno delle tasche che mi scappano le cose. Quindi si sanno conciare le pelli, esiste la tessitura, tutte cose che fanno parte anche delle società di cacciatori raccoglitori, non sono solo tipiche, non sono solo delle società agricole, però sono gruppi sociali nei quali grosso modo c'è una dimensione del genere. E ovviamente c'è già una dimensione, questo è ovvio, questo già lo sappiamo, diciamo ritualizzata, quindi queste danze fatte, che adesso noi vediamo così buffe perché sono un disegnino di una persona probabilmente fatta già nel Novecento, questo, cioè magari è un, che ne so, un algonchino, un quacchiutl, non ti permettere, sai, è un quacchiutl di quel, insomma, già semi-civilizzato. e quindi già vedete che c'è un, insomma, si capisce bene che questo è uno che ha studiato disegno in Occidente, insomma, però magari sarà o forse un occidentale, non lo so, perché non c'è una fonte, diciamo, dica. Questo è una danza del potlatch eschimese, dice la cosa, eschimo, ma perché fai così? Non te l'ho chiesto io di fare così. Il potlatch è ovviamente l'occasione anche per sfoggiare una serie di vestiti, costumi, copricapi di tipo tradizionale che hanno a che fare anch'essi con la religione. Quindi per esempio avremo delle danze simili, più o meno simili a quella. Allora tenete conto che questo vale per il disegno, a maggior ragione per le foto, anche le foto ormai sono tutte foto di epoca, quindi questi sono indiani, Tlingit, Quartius, quello che uno qualunque tribù del gruppo Athabasca o del gruppo Algonquin, che hanno già avuto contatto con l'uomo bianco, quindi sono già si mettono in posa, fanno le cose, c'è già, diciamo, la foto. Però qualche informazione comunque quantomeno la foggia dei costumi indossati, siamo ragionalmente sicuri che derivi che faccia parte della loro cultura. E poi naturalmente vengono costruiti una serie di sculture, di cose in genere di legno, in qualche maniera possiamo chiamarli totem. Adesso poi dopo siccome sul totemismo ci fermeremo molto parlando di Strauss, però introduciamo pure di totem. Totem è un termine molto più bello. Possono anche non essere totem in senso tecnico, poi vedremo cosa vuol dire totem, perché in antropologia totemismo ha un significato specifico e Lévi-Strauss ha dedicato gran parte del suo primo lavoro alla analisi e alla confutazione delle ipotesi, diciamo, comunque chiamiamoli pure totem, insomma, comunque sono chiaramente sculture sacre, sculture che hanno a che fare con la dimensione religiosa, insomma, della cosa di questo popolo. Quindi costumi, danze, sculture, tutte intorno a luoghi specifici nei quali si raduna per via di mare, ripeto, o per via di terra, un grande numero di persone appartenenti a questa etnia, ma non ce n'è più, e quindi ci fermiamo su questa, che è l'ultima. Vorrei insistere un attimo sul carattere siccome la distruzione dei beni non l'abbiamo incontrata nel Kula, questa è qualcosa che c'è in più nella dimensione del potlatch, come lo stiamo vedendo adesso. Allora, se potlatch e Kula insieme possono configurare, in una prospettiva puramente funzionalista, possiamo dire che funzione svolgono le cose, svolgono una funzione di, diciamo in termini moderni, di redistribuzione del reddito, no? O di scambio di beni. Quindi è una dimensione dello scambio, non direttamente di tipo mercantile, come quella che conosciamo noi. Cioè non è che io vado lì e dico io c'è il mercato. Molti di questi fanno anche questa cosa, eh? Avete visto, vi ricordate nel primissimo Nanook, che Nanook va al mercato e porta le sue pelli di foca, le vende poi, non è che sia, probabilmente lo faceva anche prima che arrivasse Flaherty, che lo filmava, insomma, forse lo faceva anche prima che arrivasse l'uomo bianco, ma accanto allo scambio, diciamo, venale, in termini di denaro, c'è lo scambio che, mettiamo mille virgolette, ma se suggerisco di aggiungere l'aggettivo simbolico, vi pare così strano? Cioè, è uno scambio di tipo simbolico che coinvolge tutta una serie di altre simbologie, di altre funzioni, quindi di altri di altre dimensioni all'interno di quella, diciamo, sociale. Quindi certamente sia il Gula che il Potra hanno una funzione di scambio, hanno quindi una funzione di redistribuzione, diciamo, del reddito in termini utilitaristici, quindi di consentire a certe tribù che non fa come il Gula, anche il Gula intorno al gesto dello scambio della collana e del bracciale, intorno ci sono le cose, quelli che fabbricano vasi vanno in giro e regalano vasi a quelli che non li fabbricano, quindi anche qui c'è qualche cosa. Però quello che ci lascia un po' perplessi è invece questa cosa, diciamo, in più, questa della distruzione dei beni. Perché vanno distrutti questi beni? Ma è possibile, ma siete scemi, non potete delaurizzarli, tenerli per l'anno prossimo, che fate di quella figura, questa è una bella cosa, ma non sa. Il cibo no, perché va male, ma le altre no, perché non sono cibo, non si possono tenere. Allora qui bisogna probabilmente approfondire un po' un'altra, chiamiamola funzione, ma voi capite che la prospettiva funzionalista comincia a zoppicare quando le funzioni non c'è troppe e a volte anche confidenti tra loro, ma facciamo finta per un momento che vada bene parlare soltanto di funzioni. Allora, è evidente che almeno il potlatch soddisfa un'ulteriore funzione, che non è solo quella dello scambio. Questa funzione l'abbiamo già vista anche nel Gula, però. Qual è questa funzione? È l'esibizione di ricchezza, è l'esibizione di potenza, quindi è la funzione di stabilire all'interno di un certo gruppo etnico abbastanza largo, arrivano 10 tribù. Qual è il capo tribù? Qual è la tribù che ha regalato di più? Qual è la tribù più ricca? E quindi qual è la tribù più, virgolette, potente? Voi capite che siamo di fronte, queste qua sono tutte società tecnicamente senza Stato, non c'è nessuno Stato. Diciamo, non c'è nessuna Stato nel senso di organizzazione politica permanente, come noi la conosciamo, espressione del volere politico o dell'attività politica di una comunità, non c'è. I capi di Gula non sono nel Gula, insomma, sapevate, sia nel Gula che qua, cioè spesso lavorano come dei pazzi, poi non gli rimane niente in mano, perché è andato via tutto, poi certo gli torna per altre vie, perché giro, ma nel momento in cui, quando un capo arriva con 120 bracciali, 120 bracciali, li propone tutti, torna a casa, che è nudo, 6 mesi dopo gli arrivano probabilmente 100-140 collane, quindi, insomma, poi nel lungo periodo non solo siamo morti, come diceva Keynes, ma ancora meglio, più o meno siamo in pari con il bilancio, tanto per dire. Però nell'immediato c'è una, e quindi nell'immediato quello che conta è l'aver riempito, è il fatto che nella memoria di quelli è, diciamo, di massa. La distruzione da questo punto di vista funziona benissimo. Chi ha distrutto di più alla fine del potlatch vuol dire che è quello che lo ha portato di più, quindi è il più potente, quindi è il più forte. Non ha nessuna importanza che siano rimasti lì le corazze, gli oggetti di rame, le pentole, le pelli, non ha nessuna importanza. Sono distrutte, allora come facevano per distruggerla? Il cibo si bruciava, le pelli e gli oggetti di rame venivano buttati a mare davvero. Ci pigliava una canoa, il capo era parlato, butta giù. A volte il rame, per essere sicuri, veniva preso a martellate prima, cioè in modo da renderli via, non ci servono più, li buttavano via. L'anno è chiuso, dal potlatch dobbiamo uscire lunghi, quindi basta, quindi martelliamo, quindi fea. Ne faremo degli altri per il prossimo potlatch, perché siamo in grado di farlo, perché abbiamo più distruggiamo e più vuol dire che abbiamo la capacità di produrre. Quindi, paradossalmente, la più è grande la distruzione e più io dimostro una capacità che noi chiameremo produttiva. Sto cercando di interpretare in termini moderni, senza forzare troppo, come dire, naturalmente, sempre cercate di interpretare il sorrisino un po' stupido sulle mie labbra come una sorta di virgolette, tante tante virgolette intorno alle cose che dico, no? Quindi non, cioè non è proprio letterale, insomma, però... Ma potrebbe anche essere detto come un gesto scaramantico, no? Nel senso che più cose abbiamo distrutto, più cose potremmo creare o avere nel prossimo. Sì, sì, è una buona pista, cerchiamo di approfondirla. Cioè, va bene come linea. Allora, che cosa vuol dire questo? Vabbè, intanto bisogna tenere presente perché noi, fra i tanti motivi per cui noi occidentali non abbiamo mai fatto, anche se, pensandoci bene, c'è qualche cosa anche da noi che potrebbe essere, questo ci riguarda anche nostri, l'analogia tra l'Imuala e l'Insula, che sono queste due robe che abbiamo detto prima. Tra i bracciali e le coccolane e, per esempio, i gioielli di una casa reale. La corona del re di Inghilterra, che si tira fuori soltanto una volta quando si trova rilassa, viene rinchiusa nel cosmo, che senso ha? Ha un valore puramente simbolico. Poi certo, loro non la, come si distruggono nella cultura inglese, però da un certo punto di vista c'è un'analogia, cioè sono beni che non hanno una diretta utilità economica, o meglio, si scambiano lì magari direttamente gli usi, però poi il suo è un segno di opulenza, è un segno di, diciamo, ricchezza. Allora, perché noi, perché questo è più connaturato da un punto di vista delle condizioni di vita per un membro, per una diciamo, società, chiamiamola, come dire, primitiva, orale, eccetera, non completamente neanche agricolizzata o anche completamente agricola, rispetto a noi che invece siamo una società industriale. Cosa c'è? Quale concezione di fondo c'è che favorisce in queste culture l'idea che qualcosa di fabbricato può essere distrutto perché tanto verrà prodotto l'anno dopo? Che chi è? In quale ambito avviene? Che c'è qualcosa che viene prodotto, viene consumato e l'anno dopo si rifà, e l'anno dopo ancora si rifà di nuovo. Certo. È il carattere ciclico dell'attività agricola o anche di raccolta, sia l'attività, diciamo, di raccolta delle vacche e dei frutti, che l'attività agricola è una attività ciclica, porta con sé una concezione del tempo automaticamente ciclica. Sì, però perché è legata ai ritmi naturali, dipende chiaramente al ritmo di rinnovamento della natura, quindi è il rispetto. Allora, però perché è più difficile per noi capirlo? Non del tutto impossibile capirlo, ma è più difficile perché in noi questo carattere ciclico del tempo si è fermato, si è specciato. Chi lo ha specciato? L'industria, no? L'industria è venuta buona ultima a specciare l'idea ciclica del tempo. Mentre l'idea ciclica del tempo si specia già con l'inizio, diciamo, dell'Occidente, della prima parte dell'Occidente. Qual è l'elemento che introduce una direzione, diciamo, nel tempo? Che introduce una concezione lineare, finalizzata del tempo, cioè una concezione ciclica del tempo. Il tempo non può avere nessuna finalità, perché tutto intorno è esattamente, passa un anno e all'inizio dell'anno dopo tutto torna come era all'inizio dell'anno prima. Come dire, c'è un azzeramento, vedete che sto parlando per cercare di prendere il portale. Si azzera qualcosa, se non la azzera la natura lo azzero io, butto via, butto in mare, martello. Allora c'è questa, all'improvviso, improvvisamente succede. succede qualcosa a un certo punto della storia, per cui viene introdotta un'altra concezione del tempo. Che il tempo non sia, o meglio, che al di sotto o al di sopra di questa idea del tempo in un cerchio, che scorre e torna sempre uguale, e quindi il tempo circolare non ha alcuna finalità e non tende a nulla, perché si rinnova costantemente, ma che cosa volete che tenda? Il tempo circolare non tende a nulla. Mentre invece a un certo punto si fa strada l'idea che il tempo tenda a qualche cosa, che ci sia una qualche entità che abbia deciso che il mondo deve essere fatto in un certo modo e che il mondo, come ha avuto un inizio, così avrà una fine. Nei miti di queste popolazioni, come nei miti greci antichi, non trovate questa idea. Adesso noi credo dell'inizio e della fine. O se c'è l'inizio e la fine, come c'è per esempio nella dimensione dei miti indiani, non indiani d'America, indiani dell'India, del Kali Yuga, ci sono dei grandi cicli settantennali, cioè non so quanto diavolo dura, alla fine del Kali Yuga c'è, alla fine del ciclo c'è questo Kali Yuga come un'enorme roba in cui Shiva diventa pazzo, no? Beh, Shiva è il dio della distruzione, insomma, no? Distrugge tutto, qualcosa del mondo, però dal mondo ricomincia da capo, ricomincia. Se guardate i miti germanici, questa cosa è chiara ancora, nei miti germanici, scandinavi, germanici antichi, e quindi nell'anello del lungo di Wagner, se vogliamo vedere, c'è alla fine dei tempi c'è l'Agmar, cioè c'è il crepuscolo di Götterdämmerung, il crepuscolo degli dei. I dei si affrontano da un lato Loki, che è deattivo con i dei del male, dall'altro Boda, Freya, eccetera, Thor, combattono, si confliggono, si ammazzano l'uno gli uni con gli altri. Il mito tedesco non ci racconta cosa succede dopo, ma è compatibile con il mito indiano. Sono tutti i miti che derivano da una sola famiglia culturale che un tempo, molti, decine di migliaia di anni fa, era attualmente unita, era questa misteriosa, e non sappiamo mai se è stato davvero un popolo, una razza indoeuropea, ma c'è una parentela tra i miti indiani, i miti germanici, i miti. Nel mito greco e latino anche c'è ancora più tempo, ma c'è, cioè, ricordate Prometeo, quando Zeus incatena Prometeo, non è soltanto che ha fatto il fuoco, cioè, se vedete bene, sia Eschilo, sia l'Inno Omerico, sia tutti i testi che parlano di Omero nella mitologia greca, vedete che c'è sempre più o meno rilevato un altro argomento. Zeus ha un'altra ragione di essere incazzato con Prometeo, perché Prometeo, proprio perché è Prometeo, è quello che vede lontano, conosce qualcosa che Zeus non conosce. Prometeo sa chi e perché detronizzerà Zeus, sa chi e quando, sa chi caccerà dal trono Zeus, quando lo e d'altra parte Zeus è arrivato al potere combattendo contro la stirpe precedente, contro quella di Titani, contro i fratelli di suo padre, contro i suoi zii, no? Contro i Titani, li ha sconfitti, li ha chiusi nel Tartaro con 10.000 lucchetti, questi si alzano sotto, qualcuno l'ha lasciato fuori, però lo ha lasciato Atlante, che deve portare il mondo sulla testa, qualche altro l'ha premiato, perché è un grande stronzo, perché è Prometeo, perché ha tradito Prometeo, è zio di Zeus, è il fratello dei titani incatenati, ma Prometeo, siccome vede più lontano, sapeva già che diceva Zeus, quindi opportunisticamente passa dalla parte e anche quello che aiuta Zeus a sconfiggere i titani. Poi per la stessa ragione beffa Zeus e si mette dalla parte degli uomini, e per questo Zeus lo pega. Ma Prometeo conosce il futuro di Zeus, quindi anche nel mito greco c'è questa idea dell'avvicendamento, poi è tutta bloccata, non ci raccontano più cosa succede, però sappiamo metà della storia. Il mito germanico ci racconta in modo più disteso di quello greco la fine del ciclo. Il mito indiano ci racconta, il mito indiano in India ci racconta tutto, ci dice ci dice che c'è un continuo tagliante, che ce n'è 7 di fila, e dopo il 7 c'è il ciclo ancora più grande, e dopo ci sono altri 7 di fila. Quindi questa è la concezione di fine, è la concezione circolare del tempo. Il tempo in queste concezioni non può avere nessuna finalità. E quindi l'uomo, detto in altri termini, non ha nessun obiettivo da perseguire e da costruire, perché tanto il tempo, Cronos, il tempo si mangia tutti i suoi figli, li distrugge, poi certamente evacua o vomita, in qualche modo la storia, diciamo, ricomincia. Ma da dove viene allora? Perché nella cultura occidentale c'è l'idea che il tempo abbia una fine? Che alla fine ci sarà il giudizio. Guarda, chi l'ha portata questa roba? Il cristianesimo. E il cristianesimo dove l'ha presa? Non si è andato nulla in cristianesimo. Chi ce l'aveva prima del cristianesimo questa idea del tempo come una freccia che va da un punto all'altro? Ebrei. È stato l'ebraismo, è l'ebraismo il portatore. E pensate bene, come mai gli ebrei potevano avere una concezione unici, l'unico popolo in tutto il Mediterraneo, circondati da popoli che avevano una concezione circolare del tempo, l'unico popolo che aveva una concezione non ciclica finalizzata era gli ebrei. Che cosa avevano anche gli ebrei che distinguevano da tutti gli altri popoli del Mediterraneo? Il monoteismo. È difficilissimo con il politeismo, cioè se c'è il politeismo è la forma non più semplice, ma più intelligente, più equilibrata e più democratica di divinità che ci sia, perché mi dice che Dio è rappresentato in tante parti, cioè se gli dei sono tanti c'è un equilibrio di forze e l'equilibrio di forze automaticamente porta con sé, no, una visione del mondo e attraverso. Prima o poi si conclude la guerra, poi la finisce, azzerano le cose e si riparte, diciamo, da capo. Se Dio è solo uno, è pericolosissima l'idea che ci sia un solo Dio. È un'idea, e poi su questo è stata costruita un'intera civiltà, e tanto di cappello. Però c'è un'incredibile che concettualmente è molto pericolosa. È pericolosissima perché dà a un solo essere, cioè, la facoltà di comandare tutto, e quindi di dire, no, io voglio avere. Io voglio che, io creo l'uomo, perché ci devo partire l'uomo? Quando nel Genesi, le ricordate il Genesi, no? Si deve creare Adamo, perché lo crea? Cosa gli dava a fare? Una cosa gli dava a fare, qual è? Già, prima cosa, non puoi curare, non lo dice curare. Cosa fa prima? Che cosa crea Adamo prima di figlio Adamo? Prima la luce, poi tutti gli animali, tutti gli altri pesci, tutti gli altri pesci, poi arriva, quindi viene questo pigiare l'idea, piano di fango, soffiare dentro, non di tutto il soffio, lo sputa nel mito del germanico, nel germanico c'è una roba di creatura, che è simile, molto simile a quella semitica. Attenzione, pensate che i semiti non sono gli europei, quindi il cristianesimo è il più grande tentativo di ibridazione teatrale, culturale, di ebrei che sia mai stato fatto nella storia del mondo, perché sono miti semitici, quelli ebraici, che si fondono con miti indo-europei, che sono quelli. Però i greci nel cristianesimo mettono la parte filosofica, le cose più belle, cioè leggete il Vangelo di Giovanni, che è l'unico Vangelo filosofico che c'è. Quello è un Vangelo neoplatonico, l'interplatonismo, ma l'idea della freccia del tempo, l'idea che il tempo sia una dimensione irreversibile, che va da un punto ad un altro, è il contrario dell'idea che avevano i greci del tempo, il tempo era circolare per i greci, tutto tornava alle condizioni di partenza. No, gli ebrei dicono c'è una finalizzazione. Allora, non lo ricordate, ve lo dico io, Dio gli dice ad Adamo, guarda, questo è il creato, questi sono gli animali, queste sono le piante, tu devi dare un nome, devi nominare. È collegato tutto con la conoscenza, quindi con il linguaggio. Geova crea Adamo per soddisfare un una esigenza linguistica per dare dei nomi alle cose, quindi per costruire un, diciamo, linguaggio. E questa è una, per l'ebreo e per l'uomo occidentale prima del Novecento, prima del tempo, questa è una operazione irreversibile. Le cose non possono cambiare nome, una volta che le abbiamo detto questo nome, questo è il nome, questo tiene per sempre. Ups. Ma come? Ma se non, se e se c'è il Kali Yuga? E se c'è il robo del mondo, quando tutto ricomincia da capo, che cosa mi impedisce di chiamare la tartaruga, di chiamarla cicciovello, e il serpente di chiamarlo aquila, e l'aquila di chiamarla Pippo Baudo? No, ma se il tempo è irreversibile, se il tempo è irreversibile, dura una volta sola, molto lungo magari, ma arriva alla fine, c'è un inizio e c'è una fine. Voi sapete benissimo qual c'è, come mai, che, qual è l'immagine finale del Nuovo Testamento, cioè della parte nuova della Bibbia, e com'è che finisce l'Apocalisse? Finisce con una grande città che sta sulle nuvole, che sta in cielo, che era la Gerusalemme celeste, che cala sulla terra, e quella è la fine del mondo. Quella del mondo, perché allora dalla Gerusalemme celeste esce una figura autorevole, che sia sicché Gesù Cristo, che sia sicché il rappresentante, così è, che è il rappresentante del... Stai registrando tu o non stai registrando? Stai registrando. Che è Gesù Cristo, che è rappresentante, c'era, e quindi vedete com'è che finisce, questa è la questione del tempo. Non c'è più gioco, game over davvero, game over, ma non si può ricominciare, non c'è il Game Boy, non c'è la PlayStation che io azzero e comincio a capo. Il tasto game over non è, cioè c'è il tasto game over, ma non c'è il tasto replay nella concezione ebraica. Da questa bizzarra, devo dire improbabile, ma ahimè storicamente cioè, è realizzata e feconda, ibridazione tra una cultura semitica, quella, quella ebraica, e una indoeuropea, la filosofia neoplatonica ellenistica, è nato questo ibrido storico che si chiama cristianesimo, e che è di cui il povero predicatore Gesù, come dire, di Nazareth ha pochissima responsabilità, lui non voleva fare nulla di quello che sarebbe fatto dopo, insomma. Non voleva fondare una nuova religione, non voleva fare niente, era un predicatore, cioè aveva un codice morale da dire, ma e poi usava, era uno che con un modo di parlare molto metaforico, quindi diceva il padre mio che sta nei cieli, eccetera. Poi, allora chi è stato? E poi dopo chi è arrivato, che ha preso alla lettera, ho fatto finta di prendere alla lettera quello che diceva Gesù Cristo, chi è che ha fondato davvero il cristianesimo? Non Gesù Cristo, ma San Paolo, naturalmente. San Paolo, cioè un convertito, cioè uno delle peggiori, cioè sono i più terribili, quelli che hanno cambiato la data, non perché non si possa, figuriamoci, ma perché i neofiti sono quelli che devono, siccome hanno un passato da farsi perdonare, lui da farsi perdonare il passato di persecutore dei cristiani, e allora per forza di cose doveva essere più, e infatti, cioè il cristianesimo come lo conosciamo noi, poi il vero cristianesimo poi sono i padri della Chiesa che lo costruiscono, Origene, Atanasio, tutti questi qua, e diciamo prima del secondo secolo e mezzo, prima del Concilio di Nicea non c'è il cristianesimo. San Paolo pone le basi dottrinali, e quindi diciamo i Vangeli, soprattutto il Vangelo di Giovanni, gli danno l'immaginario al cristianesimo. San Paolo di Tarso gli dà il wired, il wireframe, l'impalcatura, lo scheletro. Sì, non lo scheletro, la così. I padri successivi della Chiesa gli mettono un po' di carne, gli mettono un po' di creta, un po' di gesso, un po' di marmo, se volete, insomma, cominciano a costruire la statua. Costantino, più o meno, nonostante il falso storico della formazione di Costantino, che non c'è mai stata, comunque l'editto di Milano c'è stato, e quindi con l'editto di Milano Costantino gli dà le gambe politiche, quindi c'è sede del regno di Stato, e poi nei due o tre secoli successivi, diciamo, San Girolamo, Sant'Ambrogio e soprattutto Sant'Agostino, il terzo, i vari padri finiscono, gli danno la mano di vernice, fanno il finish, viene fuori l'opera, cioè praticamente da allora in poi il cristianesimo dopo Agostino non ha più, cioè non si è mai mosso, non ha più prodotto nulla di lì. È un'opera gigantesca, devo dire, ragazzi. Sì, sono Girolamo, Ambrogio e Agostino, sono i tre. Allora, Girolamo è quello che promuove la traduzione in latino della Bibbia, che prima di lui c'era solo la versione dei 70, quindi quella greca classica, poi lui l'ha fatto in latino, Girolamo, poi dopo Ambrogio, e dopo Agostino, che è un gigante anche ovviamente della filosofia, nella storia della filosofia, e tanto il cappello a tutti questi signori, i quali ci hanno framed, come diceva Roger Rabbit, ci hanno incastrato tutti dentro questo quadro concettuale in cui, ahimè, ai noi, anche i refrattari si trovano costretti, volenti o nolenti, ad operare. Fine della parentesi teologico-politica, direi, avrebbe così. Accidenti, sono anche lontano, Allora, torniamo a noi. È chiaro che il Potlatch è totalmente compatibile con una visione circolare del tempo, no? Perché? Perché se il tempo è circolare, se sono i cicli della natura, diciamo, la natura cosa fa? Sta silenziosa, silente, alberi, gli alberi spogli, gli animali in letargo, nessuno si muove, tutti hanno freddo, sotto le coperte tutto l'inverno, poi arriva la primavera, e improvvisamente, nel giro di pochissimi giorni, rigoglio, frutta sugli alberi, cespugli, erba, alberi che fronde, foglie, tutto qua, animali che scorrazzano, mangiano come dei disperati, si mangiano tra loro, si ammazzano, si seguono, si corrono, fanno l'amore, tutto quanto, eccetera, eccetera, eccetera. Durante il periodo dell'estate comincia ad arrivare l'autunno, e di nuovo si chiude tutto. E si distrugge tutto quello che si è prodotto in questo periodo è stato distrutto. E cosa deve fare l'essere umano se non questa cosa? Quindi sai che l'essere umano martella pezzi di rame per farne bracciali, corali, ma è sempre da una parte di quello. Questi devono fare la stessa fine di quelli. Quindi il potlatch è, come dire, una buona, come dire, è adesso non dico naturale, perché è un termine che non voglio usare, posso che portare fuori strada, è culturale il posto, certo, non è affatto naturale, ma è comprensibile, è del tutto coerente con una visione naturalistica, naturistica della vita, della concezione, insomma, delle attività umane collegate con la natura, che si facciano delle cose tipo il potlatch, che sia. Quindi, insomma, ci siamo. Cioè. E perché hai detto prima che poi non l'hanno più fatto? Ma naturalmente, perché arriva l'uomo bianco e l'uomo bianco dice, ma che diavolo fate? Cioè l'uomo occidentale dice, ma come? Dice, costruite le cose e poi le distruggete. Ma siete scemi, dice, ma cioè, qua bisogna vendete, andate sul mercato, vendetele, fate i soldi. Sì ragazzi, adesso io ve la dico così, ma questo hanno fatto gli esseri, cioè hanno introdotto una logica totalmente diversa, ma noi ci siamo arrivati attraverso questa strada lunga che vi ho detto, dal Vangelo di Giovanni fino al Concilio Vaticano II, come dire, passando per la nascita del capitalismo. È comprensibile che noi abbiamo questa storia, ma loro, come dire, non avevano, per loro si tratta di una imposizione, gli hanno imposti dei ritmi, dei metodi totalmente strani. È chiaro che una cosa come il potlatch, che è così, come tutte le, tutte le loro istituzioni culturali, politiche, sociali, eccetera, sono state distrutte come dire, l'uomo bianco le ha distrutti in tre modi fondamentalmente. Sul piano, diciamo, come dire, militare, vincendoli militarmente e quindi massacrandoli, ammazzandoli proprio di brutto con le armi da fuoco. Distruggendoli sul piano biologico, perché ha introdotto di botto in un ambiente che aveva trovato un equilibrio per conto suo una serie di forme di vita, animali, virus e batteri, per i quali loro non erano preparati. Un indiano moriva per un raffreddore, perché non aveva gli anticorpi sviluppati per quello. La gran parte degli indiani sono morti, certamente massacrati, ma molti anche comunque indeboliti dalle nuove malattie sconosciute nel nuovo mondo, che per loro era il vecchio mondo, e il nuovo mondo eravamo noi che siamo arrivati lì. E in terzo luogo dal punto di vista culturale, perché il modello culturale occidentale, cioè capitalistico, aveva una vocazione totalitaria come ha, ma che non ha mai avuto nessun modello culturale precedente. Gli uomini primitivi si limitano a chiamare uomini se stessi e barbari gli altri. I greci, quando hanno combattuto e sconfitto i persiani, basta, i persiani tornano a casa loro, non ci penso neanche a importi la democrazia. Non a caso, quando Atene fa la guerra del Peloponneso e impone a tutti i suoi alleati di accettare la forma democratica perché loro sono quelli che hanno la forza. Se leggete il terribile discorso, terribile, di Pericle, no, di Pericle, del, non è di Pericle, dell'inviato, dell'anonimo inviato degli Atenesi ai Meli, che sono i primi che vengono sterminati perché recalcitrano all'alleanza con Atene. E l'anonimo ateniese che parla all'assemblea di Melo, nella guerra del Peloponneso di Setucide, gli dice con una asprezza che da noi c'è, come dire, ammirevole e insieme spaventevole, voi dovete sottomettervi a noi ateniesi, volete sapere la ragione? Non c'è nessuna ragione, perché noi siamo più forti. Se voi non disobbedite, vi sterminiamo, quindi avete due possibilità: o vi alleate con noi e quindi vivete, certo, ci dovete pagare delle tasse, fate parte di questa alleanza, che d'altra parte, come vedete, è molto grande, eccetera, oppure venite sterminati, perché sapete che noi abbiamo 94 triremi, belle e robuste, voi ce ne avete due sfigate, e quindi non c'è gioco, siete fatti fuori prima, noi abbiamo 1500 opliti, voi ce ne avete 150, pure un po' troppo piccanti alcuni, e quindi che diavolo volete, cioè siete fatti fuori. E quindi dovete applicare. Ovviamente poi sapete anche come andare le cose, cioè questa come dire, follia, che giustamente Tucidide, che è uno scrittore conservatore, ma insomma però fa delle critiche giuste alla, virgolette, democrazia di Atene, la guerra del Peloponneso la perdono gli ateniesi e la vincono gli spartani e Atene e vengono demolite le mura del Pireo, che erano il simbolo, queste lunghe mura che univano la città di Atene al porto del Pireo, che sta un po' sotto. Vabbè, ma di vado da bene, fermatemi, che mi vengono così, quindi le dico. Abbiamo questo tempo circolare che viene distrutto. Certo, questo tempo circolare viene distrutto e si introduce questa. L'ultima cosa che volevo dire, l'ultima cosa del podcast, il podcast però può essere interpretato anche dal punto di vista, come dire, ci può essere una lettura, anche questa moderna, contemporanea, forzata un po', ma che però è anch'essa compatibile con la concezione del mondo di queste culture. In una concezione circolare del tempo, uno dice, ma allora non ci possono essere degli incentivi economici, non ci può essere una motivazione a produrre sempre di più, perché tanto alla fine dell'anno devo, come dire, distruggere le robe. Se voi però rovesciate un attimo il punto di vista, voglio dire, va bene che questi indiani, questi Quakute, questi Tlingit, scriviamo i posti nomi, però io li pronuncio e voi non li sapete scrivere. Ma come dove li scrivo qua? Quakute, questa è una delle tribù che sono più studiate dentro, e l'altra si chiama Tlingit. Va bene, l'hanno fatto perché erano culturalmente predisposti a farlo, ma sono esseri umani, quello, come dire, la libertà di scelta c'era, quindi voi rovesciate il ragionamento. Non dico che sia un ragionamento cosciente, ma usiamo questo modo di dire, è come se il Quakute o il Tlingit si dica, il prossimo anno devo produrre di più, sia sul piano del cibo che sul piano degli oggetti del denaro. Come faccio a produrre di più? Mi faccio terra bruciata dietro, non mi faccio nessuna scorta. In una situazione ciclica, bruciarsi dietro il terreno, non farsi scorte, è un incentivo economico, è l'analogo del desiderio di accumulazione del capitalista, in un altro contesto, certo. Se non ho un meccanismo di accumulazione, perché non c'è un meccanismo di accumulazione in quelle economie, e quindi se produrre dove non c'è un meccanismo di accumulazione, cioè dove da un punto di vista marxiano il denaro non è una merce come le altre, ma è semplicemente un mezzo di pagamento usato neanche sempre, usato in maniera rara, eccetera, eccetera, che senso ha? Non si accumula niente, non solo non si accumula denaro, ma non si accumulano neanche beni, non ho neanche l'incentivo ad accumulare, a parte che una gran parte della mia produzione è comunque di beni reperibili, che dopo un po' muoiono. I leader delle Trobriand si devono inventare un uso cerimoniale degli ignami andato a mare, che dopo un po' va a mare, dopo 15 giorni, un mese che sia. Sta lì, allora uso questo per fare dei riti particolari, insomma è un po' forzata come cosa, no? Allora cosa fare? Tanto vale distruggere. Sulla base del modello del bene primario e più diffuso, che comunque è il cibo, che va male comunque, che si distrugge comunque, anche il manufatto lo distruggo e uso questa distruzione come uno stimolo per fare in modo che il prossimo anno ne produco di più. Tutto lì. Quindi vedete che c'è un intreccio dentro a questo potlatch, quindi spero di avervi dato una qualche idea vaga delle similarità ma anche delle somiglianze, che sono le robe che studia appunto Moss. Similarità e differenze, somiglianze e differenze, cose, ma c'è in qualche maniera un ciclo unitario. Allora, qual è il punto di vista? Che punto di vista introduce? Questo è molto interessante. Che punto di vista introduce Moss da questo punto di vista? Allora, la probabilità, no, la possiamo vedere però un videino del potlatch. Questo quindi sarebbe la struttura, il prodotto, il concetto di struttura? No, il mostro non ancora, è solo cosa. Allora, come che chiudo qua? Chiudi. Allora, chiudi con rosso. Torniamo, dov'è? Eccolo qua. No, altra tipologia. Eccolo qua. Una buona sposta. Vediamo se fa. Ma ce l'abbiamo? Ah, qui non so come fanno. Quello che born to be a chief, it was James Seaweed's role to give potlatches and share as well. Now sing. Già in epoca lui c'erano bianchi sono vecchio sopravvivente sono tra i pochissimi diciamo footage di un'epoca certamente moderna perché c'è il cinema però abbastanza di sono tutte le cose che ho trovato in rete sono tutte ricostruzioni fatte tutte a colori però si vede che sono già cose fatte per i turisti queste sono praticamente sono le immagini queste sono le ultime immagini degli ultimi potlatch autentici poi certamente il canadese è il primo con il fuori legge poi anche quello degli Stati Uniti, perché appunto perché è una roba inconcepibile da un punto di vista insomma, diciamo, economico. Allora, l'introduzione di Moss è di questo tipo, cioè Marcel Moss dice, attenzione, certamente c'è una dimensione diciamo simbolica, eccetera, in questa cosa, però dice lui, c'è anche una diciamo dimensione, chiamiamola virgolette, economica, cioè e il ragionamento che fa è, adesso poi dopo io dirò come la penso io, ovviamente, quadramente totalmente sballato sul piano storico, però è interessante dal punto di vista diciamo del metodo, perché? Perché Moss cerca di salvare la continuità tra le società primitive e noi, non solo all'ovvio livello generale che c'è uno sviluppo che qui, o che sono modi diversi di come dire, supplire, insomma, diciamo, realizzare una stessa funzione diciamo, sociale. Ma sul fatto che secondo lui qualche cosa della dimensione, quindi non delle intenzioni, ma dello svolgimento concreto nel processo del potlatch è rimasta anche nel processo economico moderno. Cioè lui dice in qualche modo una molla possibile per lo scambio, che noi giustamente vediamo principalmente nell'aspetto monetario, del denaro, eccetera, eccetera, in realtà però, dice lui, ha anche, ancora oggi, ha in qualche maniera una dimensione simbolica dovuta alla reciprocità. E la sua, diciamo, l'argomentazione che adduce a sostegno di questa cosa è che anche nelle società attuali in qualche maniera il dono deve essere cambiato. Anche nelle società attuali colui che riceve il dono e non lo ricambia adeguatamente viene considerato un po' male, perché ti sei approfittato, ti hanno fatto un bel regalo così e tu ti hanno regalato un Rolex e tu in cambio gli hai fatto la torta di fragole, insomma, non c'è. Quindi che in qualche maniera, ed è come dire un movimento duplice, no? Da un lato c'è una sopravvivenza di un aspetto non interessato nello scambio anche economico, monetario, cioè sopravvive una dimensione diciamo gratuita, non interessata di gratuità nel Quindi questa è la sopravvivenza della vecchia logica nella nuova. Dall'altra parte, già nel meccanismo del dono ci sono dei meccanismi che potrebbero essere definiti, non usa questo termine, proto-economici, cioè una sorta di economia primitiva, di ante-economia, prima che nasca un'economia vera e propria, in cui il denaro... Allora voi fate conto che noi, fra l'altro, noi parliamo del denaro, ma diciamo, il denaro c'era anche prima del capitalismo, è ovvio, ma non ha mai avuto lo stesso peso economico da che succede oggi. Ancora nel Medioevo, gran parte, almeno una parte, non so dire se grande, adesso non voglio impegnarmi in una asserzione troppo impegnativa, però almeno una parte degli scambi economici avvenivano in modo del baratto. Molte volte il contadino va lì dal calzolaio, gli fa, bisogna fare le scarpe, e come pagamento gli dà un sacco di grano, un sacco di farina. Cioè, poi certo, a livello, i grandi mercanti, no, certamente Marco Polo parte da Venezia con una quantità di milioni di fiorini, no, non in forma di scudi, ma in forma di lettere di cambio, perché c'era già un sistema di embrionale, non proprio di banche, ma di agenti economici, per cui c'erano dei beni, lui firma delle fideiussioni, dei pagamenti cambiali, insomma, no? Marco Polo porta in Cina delle specie di cambiali, ma questo valeva per i grandi mercanti, loro sì che usavano, diciamo, il denaro come era realizzato, ma il singolo cittadino non lo usava. Oggi è impensabile che se io voglio comprarmi un cellulare vado, dico, senti, dal cellulare, però ti faccio due o tre lezioni di inglese o due lezioni di antropologia, mi tira dietro le ciabatte, mi fa senza andare via se non mi spara, che potrebbe anche prenderla con me. Questa è una bomba di lamina, cioè ti rubano una sega di sigarette, dicono questi che è legittima difesa, le chiede da che per difendere una sega di sigarette sbaglia uno, io non lo so, ma mi pare che voi pensate a quale livello di perversione siamo arrivati, non parliamone perché è rabbia. Allora, c'era questa, diciamo, quindi c'è una sorta, però la cosa probabilmente migliore è leggere dei pezzi, siccome il tempo ce l'abbiamo, ma sì, che ce l'abbiamo oltre. Che miracolo, come ho fatto oggi a dire l'essenza, cioè, potevo fare così fino all'inizio del corso? No, però io anche raccontato due tre, devo raccontarti, non è che vi ho lasciato senza, diciamo, aneddoti, ecco, no. Io sono appesa all'economia proto-economica. Sì, allora, no, vabbè, questo ve l'ho detto, non legato, sono due. Allora, da un lato c'è questa cosa, e dall'altro, allora, come dire, i movimenti sono due. Da un lato c'è una logica del dono che sopravvive anche oggi all'interno dell'economia. Dall'altro, già all'interno del dono, nella fase primitiva, c'è un'anticipazione dell'economia, questo approccio economico vuol dire che c'è un'anticipazione, si anticipa qualcosa di quello che poi diventerà il meccanismo economico. Allora, capite, è una adesso, prima di leggervi il mostro vi faccio già la critica, così arriviamo sempre pronto. Allora, è chiaro che è eccessivo questo, come dire, programma di Moss, non si può salvare capra e cavoli così, devi scegliere a un certo punto su qual è la tua... un po' di funzionalismo e un po' di simbolismo, un po' di sopravvivenza e un po' di anticipazione, cioè è veramente voler salvare, cioè volere mettere tutto nella una cosa e volere... Però il modo in cui lo fa... Questa è la critica. Okay. La mia, di caronia. Sì. Però ve la dico così, voi insomma, sapete come dire qual è. Però dal punto di vista... adesso intanto vi dico il numero di pagine, poi non... allora, qui siamo a pagina 156. Ah, no, vi leggo anche l'inizio però, perché è bello. Vi faccio vedere anche un po' come si dà, 192, quindi sono 150, 50 e 90, sono 140 pagine, insomma, una robetta così, in cui c'è una quantità di materiale impressionante, cioè ogni volta note sono più lunghe, diciamo, del testo, e vengono illustrati tutti questi, tutti o una parte, quelli che lui conosceva, insomma, però con tutta la, diciamo, letteratura nota ai suoi tempi, vediamo l'inizio, perché voi, insomma, capite, già è simpatico che un trattato di sociologia o di antropologia comincia come, e lui ci ha scritto epigrafe, adesso ve la leggo perché vabbè, voi, anch'io ho i miei trip, dice, comincia così: ecco alcune strofe dell'Avamal, uno dei vecchi poemi dell'Edda scandinava, cioè l'Edda è Edda, non è il nome della come si chiama la figlia del suocero, la mossa, no, della nuova di Mussolini. No, che Edda Ciano si chiamava. Ma è, allora, Edda è la più antica raccolta di canti scandinavi, è la nostra fonte principale sulla mitologia scandinava. È quella da cui praticamente poi Wagner ha tratto in gran parte la sua cosa per l'Anello del Nibelungo, perché non l'ha tratto dalla versione tedesca, che è molto più tarda, il Nibelungenlied, il canto dei Nibelunghi del X secolo. E nel Nibelungenlied sono già tutti cristianizzati, vanno tutti a messa. No, cioè, è vero, è stato scritto nel X secolo d.C., quindi è ovvio che sia. Invece l'Edda, che è posteriore, ma raccoglie dei materiali orali anteriori, c'è proprio la fase ancora pagana del rito, ed è molto bello, non so, io per me è stata una delle letture che ho letto quando ero molto più giovane che adesso, e quindi sono rimasto un po', insomma, legato. Ce n'è due di Edda, la cosiddetta Edda poetica, che è questa raccolta di canti, e poi l'Edda di Snorri Sturluson, che è una riscrittura da parte di un poeta danese, di uno scaldo, si chiamavano, i poeti danesi erano scaldi, scritta anche quella verso il 1200-1300, ma l'Edda è più bello che uno scaldo. Allora, l'Avamal è uno dei vecchi poemi dell'Edda, dice che possono servire da epigrafe al presente lavoro per l'immediatezza con cui mettono il lettore nell'atmosfera di idee e di fatti in cui si svilupperà il nostro assunto. Poi mette la prima strofa e alla prima strofa gli mette una nota che è lunga il doppio della strofa, ma la nota non ve la leggo naturalmente. Vi leggo le note, vi leggo le strofe e poi voi mi dite che cosa capite. Strofa 39. Non ho mai trovato uomo tanto generoso e tanto munifico nel nutrire i suoi ospiti che ricevere non fosse ricevuto, né uomo tanto, manca un aggettivo, del proprio bene, che ricevere in cambio gli fosse sgradito. Con armi e indumenti gli amici devono farsi piacere l'un l'altro, ognuno lo sa da se stesso, per propria esperienza. Coloro che si fanno reciprocamente regali restano amici per il più lungo tempo possibile, se le cose arrivano a prendere una buona piega. Bisogna comportarsi da amico verso l'amico e ricambiare regalo con regalo. Bisogna contrapporre sorriso a sorriso e inganno a menzogna. Strofa, questa è la 41 e la 42. Strofa 44, ne salta un po' ogni tanto. Tu lo sai, se hai un amico nel quale hai fiducia e se vuoi ottenere un buon risultato, devi confondere la tua anima con la sua e scambiare i regali e rendergli spesso visita. Ma se hai un altro del quale non ti fidi e se vuoi arrivare a un buon risultato, devi dirgli belle parole, ma avere pensieri mendaci e rendergli frode per menzogna. Siamo noi. 46. È la nostra vita. Lo stesso sarà per colui nel quale non hai fiducia e i cui sentimenti ti mettono in sospetto. Devi sorridergli, ma parlargli a malincuore. I regali ricambiati devono somigliare ai regali ricevuti. No? Non, quindi se ti hanno dato brutto, tu rendi brutto. Gli uomini generosi e valorosi vivono la vita migliore. Essi non hanno timore. ma un codardo ha paura di tutto. L'avaro ha sempre paura dei doni. Perché ha paura dei doni? Perché deve cambiare gli accidenti, magari la cosa, io ti devo rendere la torre. E un altro ci segnala anche la strofa 145. È meglio non pregare, cioè non chiedere, che sacrificare troppo agli dèi. È meglio non pregare gli dèi che sacrificare troppo a loro. Un regalo fatto attende sempre un regalo in cambio. È meglio non recare offerte che farne troppe. No? Allora, che farne troppe. Sì, è meglio non recare offerte che farne troppe. Questo è l'argomento, dice nel suo parla Amos. Nella civiltà scandinava e in un buon numero di altre, gli scambi e i contratti vengono effettuati sotto forma di donativi, in teoria volontari, in realtà fatti e ricambiati obbligatoriamente. Ecco, si potrebbe dire che in questa frase c'è un po' il succo della teoria del saggio sul dono. Il dono primitivo non è mai un dono totalmente gratuito. Ovviamente ha un aspetto gratuito, ma il contesto sociale in cui è inserito fa sì che nell'atto del donare sia implicito contemporaneamente l'atto del contraccambiare. Quindi un dono è ciò che questo pezzo dell'Edda, questo pezzo dello Havamal, Havamal che con l'H davanti, Havamal, per il resto è come lo pronuncio. Che questo pezzo dell'Havamal dice in varie strofe, c'è una logica, come dire, di reciprocità. Questa logica di reciprocità quindi è qualcosa che rende il dono meno differente di quanto noi pensiamo dall'attività economica anche, come dire, classica o insomma moderna. Allora, adesso non ho il tempo di ovviamente di farvi neanche dei pezzi, insomma. Vi dirò soltanto questa cosa, che nello sviluppo dell'argomentazione, un'altra cosa importante che Moss mette in luce, non dico che sia originalissimo, ma lui la fa in modo sistematico, è diciamo di collegare l'aspetto simbolico, quindi l'aspetto simbolico certo vuol dire che riguarda gli esseri umani, eccetera, ma l'aspetto, cioè, è un aspetto di tipo in qualche maniera sistemico, cioè il simbolo è qualcosa che riguarda il rapporto tra i vari elementi di una situazione, certo che è l'uomo che la vede così, ma insomma diciamo quando dico simbolico intendo dire sempre in qualche maniera oggettivo, cioè una oggettività nel simbolo, poi è l'uomo che la mette, però è una caratteristica delle cose. E lui invece la collega sempre con l'aspetto soggettivo. Quando dico soggettivo dico che per esempio una certa parte di questo saggio è per esempio dedicata alla nascita dei sistemi giuridici, cioè del diritto, diritto romano, diritto germanico, antico diritto indiano, come è codificato nei testi più antichi della cultura indiana, cioè negli Avesta, quindi robe di 2500-2000 anni prima di Cristo, insomma, che sono tra i testi fondamentali della cultura indù, della cultura, diciamo, induista. Quindi c'è costantemente un tentativo di collegare il lato soggettivo, quindi dei comportamenti umani, con il lato oggettivo, quindi con il lato delle... E d'altra parte voi dite, ma questo è implicito, perché se io parlo, cioè quando parlo di dono, di prestazione, di controprestazione, di offerta e di obbligazione, cosa faccio? Parlo di comportamenti umani, quindi soggettivi, che hanno una corrispondenza oggettiva, cioè che generano un comportamento sociale. Vedete che dietro c'è Durkheim, c'è l'idea di fatto sociale, il Potlatch c'è un fatto sociale. È un'istituzione, è una forma simbolica, è una pratica economica, ma fondamentalmente è un fatto sociale, cioè è una cornice generale che indirizza i comportamenti degli esseri umani, che forza che costringe in qualche maniera gli uomini a comportarsi in un certo modo e a non comportarsi in un certo altro. Quindi vedete che il legame tra oggettività e soggettività è come dire, non potrebbe non esserci, insomma, è in qualche modo. Ecco allora come chiude, non la leggerò tutta perché è troppo lunga, ma conclusioni, il capitolo 3 si chiama Conclusioni di sociologia generale e di morale. E lui dice, voglio fare un'osservazione sul metodo. Non è che noi vogliamo proporre il nostro lavoro come un modello. Noi, in questo caso è un plurale maiestatis, perché il saggio l'ha scritto da solo, quindi non è come. Però lui sembra. Non è che noi vogliamo proporre il nostro lavoro come un modello, non è che dici, in realtà è così. E questa Caronia parla, non lui. Esso consta solo di indicazioni, non è abbastanza completo e l'analisi potrebbe essere spinta ancora più lontano. Questa è la excusatio non petita, vabbè, non prendere le distanze. In fondo, più che risolvere un problema o dare una risposta definitiva, noi ci limitiamo a porre delle domande agli storici, agli etnografi e a proporre argomenti di indagine. Vabbè, l'hai detto, allora basta. Per il momento ci basta la persuasione che in questa direzione si incontreranno un numero di fatti. Una volta messe le mani avanti, arrivano le mazzate. Ma se è così, cioè arrivano i punti in cui dice va bene, adesso chiedo scusa, ma io vi ho detto questo, e se non genero siete dei cretini. Ma se è così è perché in un simile modo di trattare un problema si nasconde un principio euristico che vorremmo rendere esplicito. Un principio euristico, sapete cosa vuol dire euristico? No. Un principio che guida l'azione, ma non di tipo teorico, di tipo pratico, un principio euristico. L'euristica è parte dell'attività discorsiva umana che consiste nel rendere solida un'argomentazione con qualunque mezzo, insomma, no? L'euristica. Non è diciamo, l'episteme, non è la praxis, non è la conoscenza, non è la dimostrazione di un teorema, è il sostegno ad una argomentazione con degli esempi, con dei fatti collaterali, no? I contrafforti delle cattedrali gotiche, è questo, che servono per non farle crollare, non sono, cioè, una volta che uno impara la scienza delle costruzioni, può fare a meno, e se ha l'accendimento armato, può fare a meno di usare i contrafforti. Gli anonimi architetti gotici non sapevano la scienza delle costruzioni, non avevano l'accendimento armato, quindi per forza lo mettono, sennò il muro crolla, sapete perché sono altri contrafforti. Fai un muro, un metro, 2 metri, dopo 5 metri crolla. Cosa fai? Gli metti qualche trave, traversa, tutto così. Torniamo a noi. Allora, ma se è così è perché in un simile modo di trattare un problema si nasconde un principio euristico che vorremmo rendere esplicito. I fatti da noi studiati sono tutti, ci sia consentita l'espressione, fatti sociali totali. Oi la la. Allora, il nipote di Durkheim, il signor Moss, si permette di correggere e rafforzare l'idea dello zio. Lui dice, attenzione, non ci sono solo fatti sociali, come diceva mio zio, ci sono fatti sociali totali. Adesso vediamo che cosa vuol dire. O, se si vuole, ma a noi la parola piace di meno, generali. Essi, cioè, questi fatti sociali totali, mettono in moto, in certi casi, la totalità della società e delle sue istituzioni. Potlatch, clan che si affrontano, tribù che si scambiano visite, eccetera. E in altri casi sono un grandissimo numero di istituzioni, qua, soprattutto quando gli scambi e i contratti riguardano piuttosto individui. Quindi o fatti sociali totali che mettono in moto o tutte le istituzioni o un grande numero, cioè il numero di istituzioni a cui sono collegati i singoli individui quando non c'è tutto il clan o tutta la tribù coinvolta. Tutti i fenomeni accennati sono a un tempo giuridici, economici, religiosi e anche estetici, morfologici, eccetera. In quanto giuridici riguardano il diritto privato e pubblico, una morale organizzata e diffusa, sono strettamente obbligatori o semplicemente lodati e biasimati, politici e domestici allo stesso tempo, tali da interessare sia le classi sociali che i clan che le famiglie. In quanto religiosi, riguardano la religione in senso stretto, la magia, l'animismo e la mentalità religiosa diffusa. In quanto economici, sono presenti dovunque in essi l'idea del valore, dell'utile, dell'interesse, del lusso, della ricchezza, dell'acquisto, dell'accumulazione, nonché l'idea del consumo. Vedete che usa tutti i termini contemporanei, cioè dice, vedete che in fondo quella che vi ho dato io prima non è così lontana dalla, diciamo, lettura di Moss. È chiaro che è un terreno scivoloso, però è l'unico modo che lui ha per dare reale significatività a questi fenomeni che ha, come dire, studiato. Nonché l'idea del consumo e quella della pura spesa, puramente suntuaria, cioè riguardante il sumptus, cioè tutto l'apparato di ostentazione del come dire, benessere, benché intese diversamente da come le intendiamo noi. Tali istituzioni presentano inoltre un lato estetico importante da cui abbiamo fatto deliberatamente astrazione in questo studio. Le danze eseguite alternativamente, i canti e le parate di ogni specie, le rappresentazioni drammatiche scambiate tra accampamento e accampamento, nonché tra associato e associato, gli oggetti di ogni genere, fabbricati, usati, ornati, levigati, raccolti e trasmessi con amore, tutto ciò è accolto con gioia e offerto con successo. Gli stessi banchetti ai quali tutti partecipano, tutto, cibo, oggetti e servizi, persino il rispetto, come dicono i Tlingit, tutto è causa di emozione estetica e non soltanto di emozioni di ordine morale o utilitario. Capite perché lo chiama fatto sociale totale? Con un semplice insieme di azioni c'è una dimensione di obbligatorietà, di fondazione, quella giuridica, no? La società ti obbliga a fare questo. Ma ti obbliga a fare delle cose che ti fanno piacere, mangi del buon cibo, ti trovi con persone simpatiche, fai delle cose belle, quando hai finito dici che bello, no, fai delle cose interessanti, quindi ecco il fatto sociale totale, cioè per il momento ha detto solo... è evidente infine che si tratta di fenomeni morfologici, cioè di fenomeni che riguardano la forma di una società, no? La forma dei suoi comportamenti, delle sue istituzioni o anche dei suoi comportamenti soltanto. Tutto si svolge nel corso di assemblee, di fiere e di mercati, o almeno di feste che ne tengono il posto. Queste ultime, le feste, presuppongono aggregazioni la cui durata può superare quella di una stagione di concentrazione sociale, come i potlatch d'inverno dei Quakutl, o quella di alcune settimane, come l'espedizione marittima, il Kula, dei melanesiani. È necessaria inoltre l'esistenza di strade, o quantomeno di piste, di mari o di laghi su cui sia possibile spostarsi tranquillamente. Ci sono anche le infrastrutture, ci sono, come noi diremo. Occorrono alleanze tribali e intertribali o internazionali, il commercium e il connubium, in latino. Sia il com, che però sono tutte e due, vedete, sia commercio che connubio, sono parole che hanno il com dentro, quindi il comune, ciò che accomuna, commercio, mettere in comune le merci, connubio, che vuol dire connubio? Mettere in comune le? Nubium, ragazzi, non ditemi. Commercium è la merce, certo. E connubio? Le nozze, nupze, nozze, connubio vuol dire, poi dopo vuol dire un'altra cosa, ma l'origine del termine è mettere in, è l'aspetto comunitario delle nozze. Io mi sposo e però tutti i miei amici, tutti quelli della mia gens latina o del mio gruppo di amici, eccetera, sono tutti coinvolti, infatti l'invito e guarda, adesso si invitano a... Si tratta dunque di qualcosa di più di semplici temi, di elementi, di istituzioni complesse o anche di sistemi di istituzioni divisi, ad esempio in religione, diritto, economia. Quelli di cui abbiamo tentato di descrivere il funzionamento costituiscono delle totalità dei sistemi sociali complessi, non solo delle istituzioni, delle totalità, sono dei sistemi sociali completi. Abbiamo incontrato delle società allo stato dinamico o fisiologico, ma non le abbiamo studiate come se fossero irrigidite, statiche o cadaveriche. E ancora meno le abbiamo scomposte e sezionate in norme di diritto, in miti, in valori e in prezzi. Solo considerando il tutto nel suo insieme ci è stato possibile cogliere l'essenziale, il movimento del tutto, l'aspetto vivente, l'istante fugace in cui la società, gli uomini, acquistano coscienza di se stessi e della loro situazione rispetto agli altri. In questa osservazione concreta della vita sociale è contenuto il mezzo per trovare dei fatti nuovi, che per il momento cominciamo soltanto a intravedere. Niente, secondo noi, è più urgente e fecondo di questo studio dei fatti sociali. Questo pezzo mi serve perché vedremo, credo ormai purtroppo soltanto la prossima volta, in quale misura Lévi-Strauss abbia, come dire, dato continuità, abbia in parte risposto alle domande o alle esigenze poste da Mauss e dove invece le abbia tradite. E dove invece si sia messo su di un terreno, vedremo quale, nel quale non era possibile dare queste risposte che chiede adesso, che sembra chiedere adesso Mauss in questa osservazione concreta della vita sociale, l'istante fugace in cui la società, gli uomini acquistano coscienza di se stessi e della loro situazione rispetto agli altri. È importantissimo questo passo perché ci dice che il modo giusto di vedere il fatto sociale o addirittura il fatto sociale totale, come dice lui, non è solo quello di darne una descrizione oggettiva, ecco perché prima vi ho detto, quindi vabbè, funziona così, possiamo dire la struttura è questa, ma c'è anche un aspetto dinamico individuale. Questi fatti sociali totali sono fatti che non solo mettono in gioco delle forze impersonali, ma trasformano anche tutti coloro che vi partecipano. C'è un aspetto di trasformazione soggettiva che diciamo, mi pare Mauss coglie diciamo, in modo felice, cioè guardate che ogni volta che c'è qualcosa di significativo sul piano sociale c'è anche un cambiamento nei singoli. Se i singoli non cambiano, molti anni, non tanti, ma insomma sì, qualche decennio più tardi, Michel Foucault dice qualcosa di analogo quando nei suoi studi, negli studi degli ultimi anni sulla cura di sé, critica quello che lui chiama il momento cartesiano, cioè Foucault, critica l'approccio cartesiano alla verità. L'approccio che troviamo alla verità è la verità si raggiunge sviluppando un'attività di conoscenza conoscitiva, basta. Il soggetto tale era prima di conoscere la verità, tale quale è dopo. No, dice, non è affatto vero, non è così che si raggiunge la verità. La verità si raggiunge soltanto quando c'è una trasformazione di se stessi. Verità vuol dire trasformare se stessi. La conoscenza vera, cioè arrivare alla verità, che non vuol dire la verità totale, globale, che forse non esiste, ma la verità, cioè ciò che per me è vero, che è quello che conta, no? È quella la dimensione più forte del sé. La verità, ci dice l'ultimo Foucault, il Foucault degli ultimi anni, fra l'80 e l'84, gli ultimi corsi che ha fatto, questo non c'è in modo preciso in nessuno dei libri che ha pubblicato lui, ma c'è molto chiaramente nei corsi che ha tenuto al Collège de France. La verità, dice lui, implica una trasformazione del soggetto. Se non c'è trasformazione del soggetto non c'è acquisizione di verità. E qualcosa del genere mi pare che dica Mauss. Se c'è un fatto sociale totale, c'è una trasformazione del come soggetto. Sembra quasi che il fatto sociale totale si estrinsechi solo attraverso la trasformazione. Solo no, ma contemporaneamente. No, solo no, perché c'è anche degli effetti, diciamo, totali, sociali, complessivi. Però contemporaneamente mette in gioco anche il singolo. Gli storici avvertono e obiettano a ragione che i sociologi fanno troppe astrazioni e separano eccessivamente gli uni dagli altri i diversi elementi delle società. È necessario imitarli, dice lui, cioè imitare gli storici, cioè osservare ciò che è dato. Ora, il dato è costituito da Roma, da Atene, dal francese medio, dal melanesiano di questa o di quell'isola, e non dalla preghiera o dal diritto in sé. Dopo aver forzatamente ecceduto nel suddividere e nell'astrarre, i sociologi devono adoperarsi per ricomporre il tutto. Troveranno in tal modo dati fecondi, nonché il mezzo per soddisfare gli psicologi. Questi ultimi avvertono vivamente la loro posizione di privilegio, gli psicologi, e soprattutto gli psicopatologi hanno la certezza di studiare sul concreto. Tutti studiano, o dovrebbero studiare, il comportamento di esseri totali, non di esseri suddivisi in facoltà. La facoltà di parlare, la facoltà di pensare, la facoltà di scambiare, la facoltà di relazionarsi, cosa vuol dire? Cioè, occorre seguire il loro esempio. Lo studio del concreto, che è studio del completo, è possibile e più attraente ed esplicativo in sociologia. Noi sociologi osserviamo reazioni complete e complesse di quantità numericamente definite di uomini, di esseri completi e complessi. Descriviamo i loro organismi e le loro psicari, le loro psichi, le loro anime. E contemporaneamente il comportamento di questa massa e le psicosi corrispondenti, sentimenti, idee, volizioni della folla o delle società organizzate e dei loro sottogruppi. Vediamo inoltre dei corpi e le loro reazioni, di cui idee e sentimenti costituiscono di solito le interpretazioni e più raramente i motivi. Il principio e il fine della sociologia consistono nel cogliere il gruppo e il suo comportamento nella loro interezza. Ecco dunque ciò che troveremmo alla fine di queste ricerche nuove che lui propone di fare, eccetera. Le società hanno progredito nella misura in cui esse stesse, i loro sottogruppi e infine i loro individui hanno saputo rendere stabili i loro rapporti, donare, ricevere e infine ricambiare. Per poter commerciare è stato necessario innanzitutto deporre le lance. I potlatch, il kula, eccetera, sono tutti momenti in cui non si combatte, in cui magari ci si tratta male, in cui si fa, ricordate il modo sdegnoso in cui il capo Trobriand butta lì il suo dono, il modo furtivo nel quale il ricevente riceve, come se non fosse importante, ma ci può essere questo, però non c'è battaglia, non c'è. Se c'è battaglia vuol dire che qualcosa è andato male, vuol dire che il meccanismo, diciamo, si è rotto, che adesso tutto questo poi c'è nella cosa banalizzata, nel film western, quando si fuma il calume della pace, no? Deriva da lì, insomma, adesso non... sarebbe interessantissimo leggere tutti questi trattati di, almeno a me non veniva così, ma mano che leggevo mi veniva in mente i film western che ho visto da bambino e che mi avevano influenzato e capivo di volta in volta quali erano i reali dispositivi sociali, che ovviamente è chiaro che il film western è una roba dell'organo, c'è un'incomprensione totale, insomma, però voi sapete anche che a partire da un certo punto anche il cinema hollywoodiano si è reso conto di avere dato un'immagine totalmente stereotipa e stupida e insomma, sbagliata, eccetera, diciamo, dell'indiano, e a partire dalla metà degli anni 70, o poco prima, sono cominciati a venire fuori una serie di film, parlo di film vecchi, il primo di questi credo sia Colloro su una ragno scalpo, il terzo è un uomo chiamato Cavallo, il più famoso, il piccolo grande uomo, in cui per la prima volta nella storia del cinema occidentale un gruppo sociale di nativi americani è analizzato e visto più o meno dall'interno, cioè c'è un tentativo di vederlo dall'interno. quindi di non vedere l'immagine di queste cose che vengono di oh che fanno in giro, queste cose qua. Che, no, perché questo è, infatti si è chiamato western antropologico, questa breve stagione, insomma, diciamo, questo, vi ho dato alcuni di questi titoli. Per poter commerciare è stato necessario innanzitutto deporre le lance. Solo allora è stato possibile scambiare i beni e le persone, non più soltanto da clan a clan, ma anche fra tribù e tribù, fra nazione e nazione, e soprattutto fra individui e individui. Solo in seguito i popoli hanno saputo crearsi degli interessi, soddisfarli reciprocamente e infine difenderli senza dover ricorrere alle armi. In tal modo il clan, la tribù, i popoli sono riusciti, lo stesso devono fare nel mondo cosiddetto civile, le classi, le nazioni e anche gli individui, a contrapporsi senza massacrarsi, a darsi senza sacrificarsi l'uno all'altro. Proprio in questo risiede uno dei segreti permanenti della loro saggezza, della loro solidarietà. Non esistono altre morali, né altre economie, né altre pratiche sociali al di fuori di queste. I bretoni, le cronache di Artù, raccontano come il re Arturo, con l'aiuto di un carpentiere di Cornovaglia, ideasse quella meraviglia della sua corte, quella miracolosa tavola rotonda, intorno alla quale i cavalieri non si battevano più. Prima, per sordida invidia, insanguinavano i banchetti più belli con stupide baruffe, con duelli e con assassini. Il carpentiere disse ad Arturo, ti costruirò una tavola bellissima, alla quale potranno sedersi più di 1600 persone e girarla intorno, e dalla quale nessuno sarà escluso. Nessun cavaliere potrà dare battaglia, perché tutti i posti saranno uguali. Non ci fu più un posto d'onore e di conseguenza non ci furono più dispute. Ovunque Arturo portasse la sua tavola, gioiosa e invincibile restava la sua nobile compagnia. E così che ancora oggi le nazioni diventano forti e ricche, felici e buone. Adesso vi dirò che mi permetto di dubitare di molto di quello che scrive, ve l'ho letto apposta, perché avete capito che sono un guastafel, che non mi va mai bene niente. I popoli, le classi, le famiglie, gli individui potranno arricchirsi, ma saranno felici solo quando sapranno sedersi, come dei cavalieri, intorno alla ricchezza comune. È inutile cercare molto lontano quale sia il bene e la felicità. Essi risiedono nella imposizione della pace, nel ritmo ordinato del lavoro, volta a volta comune o individuale, nella ricchezza accumulata e poi ridistribuita, nel rispetto e nella generosità reciproca che l'educazione insegna. È evidente come sia possibile studiare in certi casi il comportamento umano totale, la vita sociale nella sua interezza. È evidente altresì come questo studio possa portare non solo a una scienza di costumi o una scienza sociale parziale, ma anche a conclusioni di morale, o piuttosto, per usare il vecchio termine, di civiltà o di civismo, come si dice ora. Studi di tale genere consentono infatti di intravedere, di misurare, di ponderare i diversi movimenti estetici, morali, religiosi, economici, i diversi fattori materiali e demografici il cui insieme fonda la società e costituisce la vita in comune, e la cui direzione cosciente è l'arte suprema, la politica, nel senso socratico del termine. Allora, è evidente che in queste ultime frasi Moss ha cercato di sovrapporre alla concretezza del suo studio, di cui vi ho solo dato delle pallide idee, insomma, per farvi qualche forse esempio in più, ma insomma non se ne sarebbe usciti più, cerca di sovrapporre a questa dimensione una dimensione molto più, scusate il termine, ma molto più ideologica, perché sovrappone una sorta di come dire, utopia della conciliazione o della trascurando due fatti. Primo, in tutto quello che, come dire, precede, è chiarissima la sua intenzione di, in qualche maniera, proporre il potlatch come una specie di, come dire, modello per tutti i rapporti sociali, diciamo, successivi. Con una cosa implicita che lui non dice mai in termini espliciti, ma che ogni tanto aleggia. Cioè, è come se si potesse... all'inizio, ormai in pieno XX secolo, è stato scritto nel 1924, come se si potesse fare astrazione dalle dinamiche sociali reali che si sono instaurate storicamente per effetto della e fosse possibile in qualche maniera, questa è diciamo l'operazione ideologica, tornare a una sorta di grado zero dello scambio. È vero che il potlatch, tutte queste pratiche in qualche maniera rappresentano quello che Roland Barthes ha appunto chiamato il grado zero, cioè una sorta di diciamo situazione primigenia o primitiva o di partenza dalla quale successivamente si può sviluppare. Ma è anche vero che di mezzo c'è stato comunque lo sviluppo della società moderna, lo sviluppo del capitalismo, la nascita del capitalismo, e che quindi è vero che ci sono dei fatti sociali totali, ma il limite della concezione di Mauss del fatto sociale totale è che lui li concepisce come delle strutture, già la terza o quarta volta che entro in questo termine, delle strutture in pratica astoriche, cioè che si ripetono uguali nel tempo o di cui è possibile estrarre un modello tale e quale da esperienze passate, di cui siamo in grado di dire: prendo questi che sono gli elementi determinanti, gli elementi che lo caratterizzano, e lo riapplico al giorno d'oggi. Ed è adesso non voglio dire proprio ridicolo, ma insomma è un po', e neanche voglio dire puerile, però trovate un aggettivo un po' meno insultante di questi due, adesso al vostro posto, parlare del mito della tavola rotonda, che obiettivamente è un mito di conciliazione, il quale però cosa fa storicamente? Chi sono questi qua della tavola rotonda? A quale popolo corrispondono? I Reartu. A quale popolo? Cosa? Ma l'inglese è un termine generico. Cioè gli inglesi sono fatti di tante componenti. Sono normanni, sono angli, sono sassoni, chi sono? Sono bretoni. Qui sono gli invasori. Sono quelli che hanno invaso l'Inghilterra, sono Guglielmo Conquistatore, sono quelli che hanno umiliato quelli che c'erano prima, che sono i sassoni, gli hanno imposto la loro lingua, che è il francese, che non è l'inglese. L'inglese si è imposto perché ovviamente i sassoni erano di più, e quindi parlando di più sono quelli che hanno fatto la lingua, però perché l'inglese è fra le lingue germaniche la più accessibile a tutto il mondo e anche a noi latini? Perché quella è la lingua germanica più imbastardita sul piano del lessico e sul piano del codice dal latino, ma non dal latino direttamente, dal latino tramite il francese. Per tre secoli la lingua ufficiale dopo l'invasione di Guglielmo il Conquistatore, 1161, credo, la battaglia di Hastings, per tre secoli la lingua ufficiale dell'Inghilterra fu il francese. I processi si facevano in francese e il povero contadino sassone, anche benestante, che non sapeva il francese, era fottuto, perché arrivavano questi e lui era negato, cioè parlava tutto francese e li pregavano. Allora, poi nella leggenda, questa che è il risultato di una guerra di conquista, i sassoni arrivano, passano il mare, sono meno numericamente, non i sassoni, scusate, gli angli, cioè i normanni, ma siccome tecnologicamente sono superiori, perché loro conoscono la staffa, il cavallo ce l'hanno tutti, no? Però possono andare su a cavallo con l'armatura, quindi hanno una cavalleria pesante, l'armatura, possono andare a cavallo con l'armatura perché mettono i piedi nelle staffe e sono stabili, quindi pochi cavalieri pesanti normanni sconfiggono un numero molto superiore di fanti sassoni armati, ma a piedi. Questi arrivano con le lance lunghe e li sbudellano tutti dall'alto dei loro cavalli, i poveri sassoni sono lì che non sanno da fare. nella traduzione favolistica e leggendaria è ovvio che il popolo che domina, il popolo che desidera, ha tutta l'interesse a presentarsi invece come quello che domina. E allora la storia della come dire, tavola rotonda è: prima di me c'erano i litigi, c'erano tutti, adesso io perché c'era la tavola quadrata, e quindi c'era chi è che ha il posto vicino al re, io, e fanno il duello. Ma dove? E adesso se facciamo una bella tavola rotonda così tutti sono tranquilli, questa è un'utopia, e un'utopia è soprattutto una giustificazione, una copertura storica, invece è un fatto di violenza. Allora diciamo tutte le cose come stanno. Non si può fare né della sociologia né dell'antropologia rifiutando o mettendo in secondo piano o evitando o ignorando una delle dinamiche sociali più importanti. I fatti sociali di cui giustamente parlavano Durkheim e Mauss, anche totali, sono fatti sociali che hanno sempre inevitabilmente una dimensione di conflitto. Dentro i rapporti sociali il conflitto c'è sempre, è ineliminabile. Se voi leggete una qualche storia in cui il conflitto non c'è, o il conflitto viene raccontato come l'idea di uno che ha soltanto sopraffatto gli altri, eccetera, sappiate che sono tutte robe ideologiche, sono tutte ideologie, sono tutti racconti fatti apposta per giustificare un gesto fondativo di violenza. È impossibile fondare nessuna società e nessuna città senza la violenza. E d'altra parte, questo lo sapremo bene, gli antichi, come viene fondata Roma? Che cosa succede quando fondano Roma? E c'è un morto ammazzato, accidenti. Un fratello ammazza l'altro, un fratello gemello ammazza l'altro. Non solo, ma il corpo del fratello gemello di Remolo, come diceva Berlusconi, Romolo e Remolo, quindi no? Lui così ragionava. Il corpo di Remo viene buttato nel solco e lui gli passa sopra con l'aratro. Certo, fa la sacrifica di Aquilino, quindi ecco la fondazione di una città, questo è, le città sono fondate sul sangue, sul conflitto e sulla variante più estrema del conflitto, sul conflitto sanguinoso, sul conflitto mortale, sul conflitto che viene, non c'è storia in nessuno dei miti del mondo. O dove c'è, allora è quando, come in tanti miti amerindi, eccetera, allora arriva o è il Dio o è l'elemento totemico, eccetera, ma allora siamo fuori, allora è chiaro che c'è una instaurazione. Ma nel mito indo-europeo, anche quando ci sono i dei, c'è sempre baruffa, conflitto, lotta, sangue. L'antropologo, sociologo, lo storico delle religioni francese Georges de Mesille ha mostrato chiaramente che i miti indoeuropei hanno tutti una struttura. Dagela, bisognerà parlare di questa struttura, prima o poi, la prossima volta ne parleremo. Soggiacente è di tipo tripartito. In genere ci sono tre gruppi di dei che due si raggruppano e si alleano contro il terzo e fanno una guerra. Nel mito germanico sono gli Asi e i Vani. Odin, gli Asi, i Vani, Frey, fanno la guerra. Poi fanno la pace, si mettono insieme. Nel mito greco sono i titani e i fratelli di Zeus, gli dei olimpici contro i titani, in tutti i miti in europei è così. Ma di Mesina ha fatto vedere che questa struttura apparentemente bipolare nasconde una struttura a tre termini, e i tre termini sono le tre classi sociali fondamentali dei popoli indo-europei, che c'è in modo più chiaramente nel mito, nella più grande produzione leggendaria mitica della cultura indù, che è il Mahabharata. E lì infatti in questi cinque fratelli, tra i Kursava e i Pandava, ma già dentro i Pandava, che sono cinque, ci sono i tre ci sono le tre classi sociali di tutte le società indo-europee, che sono quelli che sgobbano, i contadini, sì, così, i contadini, quelli che fanno il lavoro, che coltivano la terra, i guerrieri, quelli che hanno le armi, che sono a parte, non fanno nulla e vengono il contadino nutre tutte e due queste altre classi, la classe dei contadini, sono vecchi miti, quindi prima della rivoluzione industriale, quindi contadini, guerrieri e i capi religiosi e politici, quindi politica e magia, politica, leader e magia, il mago, Wotan, tutti in tutti i miti indo-europei, chi detiene il potere politico tra gli dèi è anche quello che sa trasformare gli elementi, fare la magia. Nel caso di Wotan è più chiaro, per qualche strana ragione i miti germanici sono quelli che hanno mantenuto più trasparente questa vecchia struttura, più dei miti greci, per non parlare di quelli latini che sono imbastarditi poi, che sono i miti greci trasformati in bastarditi da questa cosa. Quindi vedete che attraverso anche la storia delle religioni, eccetera, si vede che il conflitto è quello. Allora, adesso chiudo. Che cosa farà, che cosa succederà, che cosa farà l'unico vero successore di Marcel Mauss, e cioè il giovane, un po' più giovane di lui, insomma, certo, il giovane francese, circa quasi 30 anni meno di lui, no, più di 30 anni meno di lui, che è Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss non farà così, ovviamente tenterà di integrare la dimensione dell'idea del conflitto dentro la sua visione del mito, tenterà di salvare tutto quello che hanno fatto quelli che sono venuti prima di lui, Malinowski, Mauss, Boas, eccetera, eccetera, però dandogli in qualche maniera una specie di unità. Adesso vi dico solo il metodo, poi la prossima volta parleremo solo di Lévi-Strauss, ormai ho già capito che faccio 4 ore su di lui e l'ultima lezione sulla linguistica, non so come altro fare. Sennò. Allora, che cosa farà Lévi-Strauss? Come dire, mostrerà che la pluralità delle attività, delle idee, degli immaginari che ci sono in tutte queste società primitive e nella loro attività principale di autorappresentazione, che sono i miti, possono essere tutte salvate, può essere salvato il funzionalismo di Malinowski, può essere salvato il sociologismo di Mauss, eccetera, eccetera, ma a condizione di trasferire tutto questo ambaradan ad un livello diverso da quello della pura superficie dei fatti. A livello del racconto dei miti o della analisi fattuale delle strutture sociali, il pensiero mitico è un pensiero caotico, disordinato, primitivo, inconcludente, che però magicamente funziona. Queste società funzionano benissimo in quel modo. Lo stregone, l'uomo della, come dire, medicina, mastica un sassolino per farsi venire il sangue alle, come dire, gengive e poi far vedere che tira fuori una roba bagnata di sangue che suppone di avere estratto dal corpo del malato, e tutti lo vedono, tutti sanno che è un trucco, ma il malato guarisce davvero, non è stato estratto nessuno, e quella è la causa della sua malattia. Si parla dei riti magici sull'igname appena seminato, che ovviamente sono, noi sappiamo che sono totalmente inefficaci, eppure l'igname viene fuori su bene, eccetera, eccetera. A volte è semplicissimo. Qual è che si fa la danza della pioggia? In un periodo in cui un giorno su due piove, basta fare la danza della pioggia tutti i giorni e la danza della pioggia ha una, diciamo, percentuale di successo del 50%, grazie all'anima. Però funzionano, ma tutto questo è inspiegabile, è incomprensibile se noi rimaniamo alla superficie delle cose. C'è un livello profondo, dice Lévi-Strauss, che però bisogna saper cogliere e costruire, che è la famosa struttura, all'interno del quale tutto questo si semplifica. Si semplifica da un lato e si rende più complesso dall'altro. È il tentativo più ambizioso, è uno dei tentativi più superbi che la cultura umana abbia mai fatto per spiegare se stessa, prendendo a prestito la grande idea, ci sono ben poche idee originali dentro la Lévi-Strauss. Lévi-Strauss ha semplicemente preso la linguistica di Saussure, scritta e teorizzata pochi, diciamo, decenni prima, e attraverso una operazione veramente interessante l'ha trasportata nel campo dell'antropologia, copiando la linguistica strutturale di Saussure. Lévi-Strauss si è inventato l'antropologia strutturale, che ovviamente, dico io, dicono tanti altri, è altrettanto fantastica di tutte le altre antropologie, quindi non spiega nulla in realtà, come non può spiegare nulla nessuna ipotesi universalista, ma che è una costruzione intellettuale affascinante e degna di essere studiata al di là della sua corrispondenza con i fatti o con la verità o con quello che sia. Quindi la prossima volta ci addentreremo nello studio di questo signore. Non chiedo,